1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono qui, cari ascoltatori, debosciati miei, un grosso abbraccio alle 7:19 minuti, nel giorno in cui inizia la settimana decisiva numero 102 per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Dico così perché non abbiamo ancora capito se si dica 102esima o 102. Peter Bescapè sostiene 102. No, 102esima, 102esima. Però, insomma, 2 seconda, 102, 102, chi lo sa? E sono questioni lessicali, inviateci la vostra risposta, cari professori, docenti, membri della Treccani, al 349-238-6666, così noi ci adegueremo. Allora, oggi parleremo di finanziamento dei cittadini e dei partiti. Che strano, aver scoperto che il 99,9% degli italiani non hanno destinato il 2 per mille, cosa che si poteva fare e si può fare ancora, ai partiti. Ne parleremo con alcuni deputati che sono anche tesorieri dei partiti, per capire come faranno ora. Tornano anche i nostri lavoratori oggi in finale di trasmissione. Scrivete la vostra mail a 24mattino@radio24.it se volete proporci un lavoro che vi appassiona, qualcosa che fate con amore e ce lo volete descrivere in 2 minuti, magari qualcosa che ci stupisca, un lavoro un po' particolare. Allora, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 13 aprile i titoli, intanto le aperture, il Sole 24 Ore apre su questa notizia che certo non mette di buon umore, d'altronde è lunedì, l'IRPEF corre più dei redditi. Tra il 2008 e il 2014 l'IRPEF è aumentata del 10%, mentre i guadagni dichiarati degli italiani in media del 5%, dunque la metà. Corriere della Sera, così come altri quotidiani, il Papa riapre il caso armeno. Fu il primo genocidio del XX secolo. Così la Stampa, il Papa e gli armeni, fu genocidio. E il Giornale, Renzi lascia il Papa solo. Perché? Perché il premier italiano sta zitto e non incontra il presidente armeno per non irritare la Turchia. La Repubblica torna sul tesoretto, il bonus sarà per 7 milioni di italiani, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, tasse e PIL aumenta il gettito. Allora, voglio partire però proprio dalla notizia che per molti è notizia d'apertura, cioè le parole del Papa, Papa Francesco, che ha riaperto il caso armeno, vale a dire il primo genocidio del XX secolo, così, citando peraltro Giovanni Paolo II, il Papa ha definito lo sterminio del popolo armeno avvenuto un secolo fa ad opera dei giovani turchi. La reazione di Ankara e quindi della Turchia è stata durissima. Per il premier le dichiarazioni del pontefice sono parziali e inappropriate. È stato richiamato l'ambasciatore turco in Vaticano. Perché? Lo spiega molto bene Antonio Ferrari sul Corriere della Sera. La pagina, secondo me, migliore per raccontare di cosa stiamo parlando. Il massacro, questo è il titolo sotto una foto che risale al 1919 e vede infilati e impilati cadaveri ovunque. Antonio Ferrari spiega come sia il rapporto della Turchia con quei fatti storici. Spesso basta un accenno per provocare la reazione della Turchia, reazione quasi sempre scomposta, perché Ankara si rifiuta ostinatamente di riconoscere che nel suo lontano passato, un secolo fa, c'è una macchia indelebile che si chiama genocidio del popolo armeno. Genocidio di cui gli attuali governanti e i turchi di oggi non hanno alcuna colpa, ma negandolo si comportano come se fossero colpevoli. Infatti processano scrittori, giornalisti, intellettuali, insomma tutti coloro che non si sottopongono alla censura delle istituzioni. Che vi sia stato un genocidio è fuori di dubbio. Si può definire altrimenti lo sterminio di quasi 1,5 milioni di armeni nel 1915? Allora la Turchia, che nella prima guerra mondiale era alleata della Germania, ormai consapevole della definitiva disintegrazione dell'impero ottomano, decise una ruvida operazione di pulizia etnica lanciando una feroce campagna. L'obiettivo preciso era eliminare in maniera radicale quell'indisponente minoranza cristiana che osava contrastare il potere centrale del gigante musulmano. Un'operazione dettata da mostruoso cinismo. Le deportazioni cominciarono proprio come sarebbe accaduto pochi decenni dopo per gli ebrei. Lo stesso Hitler nel 1939 si riferì allo sterminio degli armeni come un fatto di cui ormai nessuno parla più. Si salvarono solo coloro che riuscirono a fuggire dalle città nelle campagne. Fino a qualche anno fa in Turchia era un gravissimo reato parlare a qualsiasi titolo del genocidio armeno. Bastava una dichiarazione, guardate il caso di Orhan Pamuk, o un romanzo, il caso di Elif Shafak, per venire denunciato e doverne rispondere in tribunale come un qualsiasi criminale. Ora che tra Turchia e Armenia vi è una certa normalizzazione dei rapporti, la tensione si è stemperata, complici le passate qualificazioni per il mondiale di calcio, le due nazionali si sono incontrate, i rispettivi capi di Stato si sono scambiati le visite stringendosi la mano. Ma certo, racconta Ferrari in questo articolo a pagina 5, rimane questa macchia e questa incapacità della Turchia di gestire questo passato a dir poco scomodo. Le parole del Papa hanno rilanciato questo dibattito. C'è da dire che il giornale invece la mette così: il Renzi lascia il Papa solo, perché racconta pagina 2 il giornale con Gian Maria Di Francesco che nei giorni scorsi il governo, soprattutto nella persona di Matteo Renzi, si è rifiutato, cioè ha fatto di tutto per non incontrare il presidente armeno in Italia. Renzi fa il finto tonto per non irritare i partner commerciali. Questa è la versione del giornale a pagina 2. Veniamo alle cose italiane. Voglio leggere una notizia di cronaca che secondo me sarà interessante per tutti coloro che hanno o una separazione in corso, sono separati, eccetera. Perché sono sentenze che fanno giurisprudenza e sono molto di interesse, visto che la questione riguarda moltissimi italiani. Niente più alimenti a chi ha una nuova famiglia di fatto. Questo ha stabilito la Cassazione, come racconta Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 8, di fronte a unioni stabili decade il diritto al mantenimento. Cattive notizie per chi conta sull'assegno di mantenimento. La Cassazione è tornata sul tema del diritto agli alimenti e ha precisato meglio un concetto già avanzato nel 2011. Nei casi in cui uno dei due ex coniugi, e le statistiche dicono che è quasi sempre l'ex marito a versare e la ex moglie a incassare, si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, il diritto all'assegno di mantenimento decade. È la sentenza 17.195 del 2011 con cui la Cassazione aveva stabilito questo principio, ma ora è stata ribadita con una sentenza del 3 aprile dalla prima sezione civile della Cassazione, che è andata oltre e ha riconosciuto la forza di un tempo alla famiglia di fatto. Quindi se un coniuge ha una nuova situazione, anche se non un nuovo matrimonio, una nuova famiglia di fatto, c'è il rischio che decada il diritto all'assegno di mantenimento. Questo racconta la Stampa, lo trovate a pagina 8. Per venire alle cose, a proposito di questo, si lega la notizia sul Messaggero. Che succede a Barbara D'Urso? Racconta il Messaggero che a proposito di assegni di mantenimento pare sia indagata perché non ha versato gli assegni all'ex marito, il ballerino Michele Carfora. Guai giudiziari in vista per Barbara D'Urso, la vulcanica conduttrice Mediaset. È finita sul registro degli indagati di Roma per violazione degli obblighi familiari. Non avrebbe mai versato l'assegno mensile dovuto al secondo marito, il ballerino Michele Carfora, trattenendo il migliaio di euro che dovrebbe girare mensilmente all'ex coniuge. E che succede? Boh, chi lo sa, si vedrà. Vabbè, ci sono due articoli da Mani sul Volante. Uno è il tema che abbiamo sempre affrontato, è quello che oggi Sergio Rizzo racconta dei vitalizi agli ex deputati condannati. E Sergio Rizzo racconta, pagina 11, tutto quello che abbiamo raccontato in una serie di puntate, cioè che il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone è riuscito lui, chiedendo un parere all'avvocatura dello Stato a Roma, a sospendere il vitalizio a Salvatore Cuffaro, ex presidente della regione, che sta ascoltando una condanna per associazione esterna alla mafia. E allora Ardizzone cosa ha fatto? Ha mandato questo parere dell'avvocatura dello Stato a Roma, alla Camera e al Senato, dicendo: cari presidenti di Camera e Senato, fate come me. Io, grazie a questo parere, ho sospeso in 5 minuti il vitalizio a Cuffaro. Perché voi non lo sospendete ai deputati, agli ex deputati che hanno una condanna come Cuffaro, di fatto, una qualsiasi condanna? Alla Camera, al Senato, che cosa hanno fatto? Hanno chiesto 8 pareri a 8 costituzionalisti: Cassese, Ainis, Pace, Luciani, Ricci, Gallo, Onida e Mirabelli. Uno l'abbiamo anche ospitato, Mirabelli. Pensate che tutto questo ha un costo, racconta Sergio Rizzo. 8.000 euro a parere. C'era Valerio Onida che non lo voleva, ha detto: no, lo voglio fare gratuitamente. Gli hanno detto no. Anche lui ha dovuto cedere e ha dovuto incassare 8.000 euro. 8 per 8, 64.000 euro. Ebbene, nonostante ciò, mercoledì forse si deciderà, scrive Sergio Rizzo, di affidare tutto a una nuova legge che avrà un iter parlamentare lungo. Ma non è questo il premio Mani sul Volante, anche se questo lo meriterebbe. Il premio Mani sul Volante va al Messaggero a questo articolo sulle spese della Regione Sicilia. Deputati siciliani a Doha. Doha è in Qatar, sono andati 2 giorni. Quanto potreste spendere voi 2 giorni con una delegazione, seppure folta, della Regione Siciliana? Per 2 giorni in Qatar, 2 giorni, dai, fate un rapido calcolo. Certo, bisogna capire quanti sono andati. C'era Crocetta, il presidente dell'ARS, l'assessore allo sviluppo, il sindaco di Palermo, il presidente della Fondazione Federico II, il senatore del PD Lumia, che però si è pagato la trasferta di casa sua. C'era il console tunisino in Sicilia, c'erano, immagino, alcuni accompagnatori, eccetera. 2 giorni, 700.000 euro! 700.000 euro, deputati siciliani a Doha, la trasferta di 2 giorni da 700.000 euro. Milan chi? Allora ringrazio pubblicamente Vittorio Pezzuto, il nostro amico Vittorio Pezzuto, che ci ha fatto sapere che si dice 102esima, quindi aveva ragione il nostro amico Peter Bescapè, il nostro regista. Perché? Perché 102esima? Io do la versione di Pezzuto, poi se non è questa, vi do un indirizzo, eccetera, andate a corchiarlo di mazzate. Si tratta di numeri arabi e quindi 102esima, 102esima vale solo per i numeri latini, per esempio il secolo XIX o Papa Benedetto XVI. Qui siamo allo sfoggio di cultura veramente da debosciatissimo da Vittorio Pezzuto. Va bene, comunque 102esima settimana decisiva allora per la riforma elettorale. Allora, invece, questo tesoretto c'è o non c'è? Questo tesoretto da 1.600.000.000 spuntato nelle pieghe del DEF. Secondo Repubblica c'è, tanto che Repubblica presenta il piano per come verrà distribuito, questo entrando nella testa del governo, del ministro Padoan, del premier Renzi: bonus per 7 milioni di italiani. Il tesoretto andrà alle fasce deboli. Il governo, scrive Roberto Petrini a pagina 6 di Repubblica, tira dritto sull'operazione tesoretto, obiettivo sostenere i redditi più bassi, combattere la povertà. Dopo l'annuncio di Renzi della disponibilità di 1,6 miliardi per interventi già quest'anno, la conferma ieri che la misura sarà indirizzata alle fasce più disagiate della popolazione. Una conferma del ministro dell'economia Padoan, che ha parlato di sostegno ai redditi più bassi, ma anche dal ministro del lavoro Poletti, che ha detto: la logica di un intervento contro le povertà sarebbe la stessa che ci ha portato a introdurre il bonus degli 80 euro. Questo però sono ovviamente le prime dichiarazioni, perché poi ci sarà questo tesoretto, sarà davvero di 1,6 miliardi, non è che scopriamo che è un po' meno, non è che scopriamo che non ci sarà, questo lo vedremo e lo scopriremo solo vivendo. Tra l'altro, Poletti ieri, intervenendo a Sky, ha parlato anche dei contratti. Sapete che c'è un grande dibattito su quanti siano i contratti nuovi, addirittura ieri il Fatto Quotidiano diceva che sono solo 13, l'altro ieri, secondo certificazione dell'INPS, i nuovi contratti, 13 in più quest'anno rispetto all'anno scorso. Il no comment di Poletti, che però ieri ha detto i contratti stabili sono aumentati, stabili. E beh, certo, perché c'è la defiscalizzazione sul contratto a tempo indeterminato, e quindi i contratti a tempo indeterminato, quelli stabili, sono aumentati. Ma guardate, sul tema del lavoro, in realtà oggi la pagina più interessante la pubblica La Stampa, a pagina 7. È un confronto, come racconta Paolo Baroni, di dati Istat che La Stampa è in grado di anticipare. È il confronto tra dati Istat ed Eurostat elaborati dall'ufficio studi della Confartigianato, che ha incrociato questi dati per esaminare anche com'è la disoccupazione distribuita lungo la nostra penisola in Italia. Ebbene, sappiate che a Bolzano il tasso di disoccupazione è più basso che in Germania. Bolzano va meglio della Germania. Bene anche Veneto ed Emilia, ovviamente, man mano che ci si sposta verso il sud siamo a livelli di Grecia e Spagna come disoccupazione. Paolo Baroni, la fotografia è sulla Stampa pagina 7. Se la provincia di Bolzano fosse uno stato in Europa sarebbe quello con la disoccupazione più bassa, appena il 4,4% nel 2014. Pensate che la Germania è al 5%. E anche il resto nel nord-est si piazzerebbe in zona in testa alla classifica, col Veneto appaiato all'Olanda, il Friuli che tallona la Svezia, la Lombardia dell'Emilia-Romagna che fanno meglio di Belgio, Finlandia e Polonia, e assieme a Marche e Toscana superano la Francia, mentre Piemonte e Liguria battono l'Irlanda, la Slovacchia e la Croazia. Poi invece, se si fa il confronto con gli stati europei, ecco che Puglia, Campania, Sicilia hanno tassi di disoccupazione tra il 21,7, il 22,2, il 23,4, quasi al livello della Spagna 24,5 e della Grecia il 26,5. Questo è il raffronto che trovate sulla Stampa pagina 7. Se vogliamo parlare di politica, cari ascoltatori, è tornato Enrico Letta. Attenzione, attenzione, Enrico Letta esce il 21 aprile con un libro, edito da Mondadori, non ha mai più parlato di fatto. Il titolo già è emblematico, Andare insieme, andare lontano. C'è oggi già una pre-recensione sul Corriere della Sera, Monica Guerzoni a pagina 11, governare non è comandare. La differenza che passa tra governare e comandare è quella tra il coraggio di dire no alle scorciatoie e il coraggio di andare lontano facendolo insieme. Chissà se a qualcuno fischiano le orecchie per queste massime raccolte dal libro di Enrico Letta e pubblicate dal Corriere della Sera oggi. Se vuoi correre veloce vai da solo, se vuoi andare lontano devi farlo insieme. E infatti il titolo del libro, Andare insieme, andare lontano, il Corriere fa sapere, fa notare che sono tutte frasi che in qualche modo, certo, si riferiscono un po' alla diversa visione politica tra Enrico Letta e il successore Matteo Renzi. Per quel che riguarda invece la politica, c'è gran dibattito sulle regionali. La situazione più intricata pare in Puglia, dove Berlusconi vuole candidare Adriana Poli Bortone, che di fatto è di Fratelli d'Italia, non è del suo partito, ma lo fa per andare contro al candidato del suo partito, Schittulli, perché questo Schittulli è voluto da Fitto, e sapete che tra Berlusconi e Fitto è davvero una tregua armata, se non una guerra ormai aperta. E oggi l'intervista più interessante, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, accetta Adriana Poli Bortone. Va benissimo, dice a pagina 6, pur di battere i Vendoli e gli Emiliani, che sono la stessa cosa, noi siamo d'accordo purché non ci siano gli Alfani. Questo dice Salvini. Quindi accettiamo Adriana Poli Bortone, da soli in Puglia d'altronde non vinceremmo e dunque dobbiamo puntare a vincere, va bene Adriana Poli Bortone. Poi svela Salvini, ad agosto andrò a Washington in missione. Così ve la butto lì, andrò a Washington in missione. A proposito di Adriana Poli Bortone, racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 10, che Berlusconi l'ha chiamata dicendole: sai Adriana, ho 78 anni, ho il diritto di non occuparmi di quegli ingrati che mi circondano. Parlando delle faide all'interno del suo partito, ha detto Berlusconi, per favore, fammi la cortesia, accetta la candidatura, cara Adriana Poli Bortone, farai parte della mia nuova squadra, tanto sto per cambiare tutto, ma ti prego di non dirlo in giro a nessuno. E ovviamente viene tutto spiattellato su Repubblica. Berlusconi che pare deluso da Verdini, parla di ingrati, vuole cambiare il partito, vuole distruggere tutto. E staremo a vedere. Problemi ci sono anche per il PD, ma li vedremo tra poco. Prima però voglio salutare con grande affetto il grande Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno, ti sento particolarmente tonico. Eh sì, perché il derby è domenica prossima. È una settimana decisiva. E certo. La 102ª settimana decisiva o 102ª? 102ª abbiamo appurato, 102ª. Abbiamo appurato che è 102ª. Bene, bene, sono contento che tu sia tornato da Doha, eri a Doha, no? No, mi pare. No, con... non eri a Doha, avevo pensato di sì. Nel frattempo, mentre tu ti riposavi, caro debosciato, sì, noi abbiamo preparato un Sole 24 Ore ben rinnovato in edicola oggi. Già hai visto, vabbè, c'è una notizia un po' mani sul volante, diciamo, diresti tu. Per l'IRPEF, sì, per la aumenta il doppio rispetto ai guadagni degli italiani dal 2008 al 2014. Effettivamente sì, forse lo sospettavamo, però vederlo con i numeri fa un certo effetto. A proposito di vedere con i numeri, se puoi mostrare l'infografica, cioè quell'insieme di numeri e dati, puoi farla vedere agli ascoltatori in radio, ecco, è una novità, una delle tante novità del Sole 24 Ore di oggi, cioè l'infografica, l'infodata che riunisce tutta la materia. Ti consiglio in particolare di meditare sulla parte in basso dove si vede come utilizziamo gli sconti. Siccome sai che gli sconti IRPEF, ecco, mostra bene quella parte lì. Questa qua, ecco. Se no poi in edicola si può vedere più comodamente, naturalmente. Poi oggi giorno decisivo per il BTP Italia, sì, perché con la nuova emissione potrebbe superare i 100 miliardi. E poi abbiamo anche un esperto risponde, sai quell'allegato che c'è ogni lunedì con il Sole 24 Ore, che raddoppia, perché oltre ai quesiti, oltre alle indicazioni di fisco, previdenza, diritti, abbiamo anche le pagine di risparmio e famiglia. E poi c'è il lavoro, parliamo di lavoro, di posti di lavoro disponibili, c'è ancora una ricerca di persone per Expo, sì, so che incombe, però ancora manca del personale, segnaliamo appunto quali sono le disponibilità e tanti annunci nel pubblico e nel privato, ma poi vengo proprio lì a parlarne, ma non con te, caro Alessandro, no, preferisco di no, vengo più avanti quando teniamoci questa settimana un po' così, un po' cerchiamo di non incontrarci troppo questa settimana, perché potrebbe essere anche fastidiosetto. E poi naturalmente nelle pagine dell'esperto risponde, dedicate appunto al risparmio e alla famiglia, oggi parliamo tra le altre cose anche dei costi delle carte di credito, carte di debito, una cosa in cui è bene sapersi districare. In più c'è un ebook, ma scopri tutto se leggi il Sole 24 Ore, un ebook in regalo che viene dato con appunto il Sole 24 Ore di oggi. E poi c'è anche la tua foto, abbiamo voluto impreziosire il tutto, certo, come al solito si rovina tutto nel finale. Vabbè. Impreziosire il tutto con la tua foto è lo dico per i cultori, soprattutto per le cultrici di Alessandro Milan, a pagina 18 oggi del Sole 24 Ore, non è enorme perché poi ci siamo anche voluti trattenere per evitare imbarazzi eccessivi. Per oggi è tutto, ma non è tutto, tantissime cose ancora sul nuovo Sole 24 Ore del lunedì. E non mi resta che salutarti come d'abitudine. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto. Grande Gabibo, anche il Gabibo. Allora, il PD, dicevamo, ha dei problemi, soprattutto in sezioni locali. Beh, noi abbiamo già raccontato la vicenda di Agrigento, dove ha vinto le primarie per Agrigento, uno appoggiato dal centrodestra di fatto. E infatti Renzi ha sospeso tutto. Come abbiamo raccontato la vicenda di Crisafulli, considerato impresentabile un paio d'anni fa le politiche, e ora vuole candidarsi sindaco di Enna. Ma la vicenda più complicata pare ad Ercolano. Ad Ercolano, come racconta il giornale, il Corriere Repubblica, c'è una roccaforte dei ribelli addirittura, da sabato, sotto la foto grande di Enrico Berlinguer attaccata alla parete del piano terra, la sede del PD è occupata dai dipendenti, dai militanti del PD di Ercolano, che pretendono di scegliere il candidato sindaco. Antonio Liberti è il segretario del circolo del PD di Ercolano, pretendente alla candidatura di sindaco, orgogliosamente dice al Corriere: sa perché questa non è un'occupazione? Perché qui è casa nostra. Mio nonno mise mano ai soldi che aveva da parte per contribuire all'acquisto di questi locali. La questione è che invece Renzi vorrebbe lui decidere in alcuni casi chi è il sindaco, perché per esempio, racconta sempre il Corriere, succede che a Giugliano a marzo ci sono state le primarie e il vincitore Antonio Pozziello tra qualche giorno rischia di essere rinviato a giudizio per associazione a delinquere. Capite che ci sono situazioni locali in cui Renzi vuole mettere mano. Per esempio, cosa succede nelle Marche? Nelle Marche se ne è parlato poco, ma il governatore uscente, Gianmario Spacca, che ha fatto già due mandati, ha lasciato il PD. E adesso correrà con una formazione di fatto di centrodestra, perché UDC e NCD, cioè vuole fare il terzo mandato, ma non più con il PD, con le liste appoggiate al PD e al centro-sinistra, ma al centrodestra. L'ex PD Spacca fa infuriare Renzi, titola il quotidiano nazionale. Pensate che il PD pensa di ricorrere alla consulta per impedire a Spacca di fare il terzo mandato da governatore, e lo fa il PD contro il governatore del suo stesso partito, del suo stesso partito fino a qualche tempo fa. Cose pazze delle regionali italiane. A proposito della vicenda invece di Ischia, l'inchiesta, la CPL Concordia, la COP, sapete che ha detto il sindaco di Ischia difendendosi, Giuseppe Ferrandino, negli interrogatori? Non ci volevo credere, ma dobbiamo aggiornare l'elenco. Giudice, ho letto le carte, ma trovatemi un atto, una mia azione amministrativa a favore di questa gente. Mai. Hanno stipulato una convenzione con l'hotel di famiglia? È stata fatta a mia insaputa. E dobbiamo aggiornare la lista, la convenzione fatta dalla cooperativa con l'hotel di famiglia del sindaco a mia insaputa. La consulenza data a mio fratello Massimo a mia insaputa. Questa la difesa del sindaco di Ischia, almeno secondo Repubblica, nell'interrogatorio davanti al giudice, pagina 20 di Repubblica. Se vogliamo lasciare cose della politica e tornare un po' alla cronaca, vi segnalo sempre su Repubblica dagli esteri quello che viene dal racconto dall'Iraq, e cioè l'ennesima distruzione da parte dei fanatici dell'ISIS, dello Stato Islamico, nei confronti di reperti archeologici millenari. Pagina 19 di Repubblica, Paolo Mattie, che è un grande archeologo, è stato anche nostro ospite, racconta: così abbiamo distrutto il palazzo di Nimrud, in un video la furia dell'ISIS. Era il Partenone della Siria, oggi è polvere dispersa nel vento. Era per gli assiri il palazzo del Ginepro, la reggia costruita da Assurnarsipal II nella prima metà del IX secolo avanti Cristo a Kalku. Il nome antico dell'odierna Nimrud fu inaugurato dal grande conquistatore con uno spettacolare banchetto cui parteciparono 69.574 invitati, con 16.000 abitanti della città e 5.000 principi e dignitari di paesi stranieri. Vi risiedettero tutti i maggiori sovrani dell'impero assiro fino alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo. La sua decorazione scultorea su grandi lastre d'alabastro per centinaia di metri, con scene di soggetto storico e rituale, non aveva precedenti nella storia artistica della Mesopotamia. Era una fabbrica palatina spettacolare di 150 metri per 120, modello architettonico di tutti i successivi palazzi reali d'Assiria. Oggi tutto questo è appunto polvere. Beh, davvero. Il resoconto poi continua, pagina 19 di Repubblica, uno scempio senza fine. Avrei ancora sempre tanto da leggere come al solito. C'è solo da dire che c'è stata una vicissitudine clamorosa per Nina Moric, almeno questo racconta Il Giorno. Nina Moric, salvata dalla madre, si è tagliata le vene in casa. Questo è successo sabato notte, racconta Paolo Verri sul Giorno. Salvata dalla madre Nina Moric. Ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. No, il selfie, no, o meglio, no selfie, una pagina di Repubblica per raccontare che nascono i movimenti per resistere alla mania dell'autoscatto. Stefano Martezzaghi, cresce il movimento di chi dice basta, basta, basta i selfie. Ma chi se ne frega?